Tempo di sport con Carlo Genta. Andiamo Mario, andiamo via, andiamo via. Ci lascia un commento? No. Le spinte a questo tiro e calcia in maniera obbrobriosa, veramente una situazione direi piuttosto semplice da realizzare. Cosa ci volete fare? C'è mondiale e mondiale, avete sentito prima effetti sonori dall'arrivo degli azzurri questa mattina a Fiumicino e poi milanisti, juventini a Malpensa. Sostanzialmente indifferenza, qualche vergogna, un po' di contestazione, ma da parte di poche persone, insomma, sostanziale indifferenza per gli azzurri, non sono arrivati pomodori in lattina come era già successo in passato. Avete poi sentito riflessi di telecronaca di Uruguay, Corea del Sud, con cui si aprono gli ottavi degli altri. Sta vincendo l'Uruguay 1-0, gol di Suarez dopo 8 minuti, poi parliamo di questa partita. Io però prima volevo salutare e ringraziare Marco Ansaldo, che è ancora laggiù in Sudafrica, a raccontarci questo mondiale che a me personalmente interessa tantissimo. Ciao Marco, grazie. Ciao. La festa è finita, restano solo i bicchieri da lavare. Io devo dire che, come diverse altre volte, avevi capito giusto, perché parlando con te prima dei mondiali dicevi, io ti dicevo, ma i dubbi di Lippi sostanzialmente sembrano pochi riguardo ai giocatori, e tu facevi notare, ma sono dubbi esistenziali, quelli sul modulo, quelli della squadra a mettere in campo, e sono i dubbi che hanno divorato l'Italia, la squadra italiana, Marco. Sì, beh, questo sicuramente, perché per quanto il livello e la qualità del calcio italiano sia scaduto parecchio, non abbiamo più dei grandi fenomeni, comunque questa qualità dovrebbe essere sufficiente per superare un girone del genere. C'è stato un rendimento molto al di sotto delle attese, io immagino che sia stato anche proprio un fatto di tensione, di paura, che è inspiegabile in giocatori che giocano al campionato italiano, che alcuni sono stati campioni del mondo, altri pensano di essere dei campioni, però poi alla resa dei conti veramente hanno giocato con la paura. Oggi sul mio giornale ho scritto sì, appunto, un articolo su questa cosa, parlandone con Bergomi, con altra gente che ha giocato a calcio, se succede che a volte poi veramente vai in campo come sono andati loro. Certo. Marco, non credi che la paura dell'Italia sia stata dovuta all'incertezza di Lippi? Cioè è come se il comandante, l'uomo che non deve chiedere mai, divorato dai dubbi lui stesso, abbia lasciato la barca in mezzo al mare. Beh, sicuramente sì, cioè, Lippi non è stato sicuramente l'allenatore deciso e capace di ripetere, non dico il miracolo del 2006, perché il miracolo è una parola grossa in quel caso, ma comunque la grande impresa del 2006. Anche lui è invecchiato di 4 anni, come erano invecchiati Zambotta, Cannavaro, Gattuso e così via. Insomma. È chiaro che Lippi non ci ha capito poco di questa squadra, ha tentato di cambiarla troppo tardi. L'anno scorso si è impaurito probabilmente dalla Confederation Cup, anche se noi raccontava che è la solita storia, no, ma noi amichevoli, poi quando invece vengono fuori le partite che contano non ci siamo, sono tutte balle, perché prima del 2006 in amichevole avevamo schiantato sia l'Olanda che la Germania, poi si è visto come è andata a finire. Certo. Quando comincia a prendere 3 gol contro il Brasile, praticamente non entrando in campo, e perdi contro l'Egitto a Johannesburg, secondo me il campanello d'allarme doveva suonare e molto. Ma tu Lippi così indeciso e incerto lo conosci da molti anni, l'avevi visto mai? No, l'ho visto in certi momenti. Ad esempio ricordo che quando arrivò Nedved dalla Juventus, impiegò 3-4 mesi per trovargli una situazione positiva in campo, poi la trovò e fu una delle chiavi del successo. Ma sono innanzitutto cose relative a un giocatore. Certo. e per un periodo molto limitato di tempo. Qui invece siamo arrivati alla vigilia del mondiale, che ancora non si capiva quale potesse essere la squadra. Marco, ti volevo chiedere ancora questo. Adesso ovviamente qui si scatenano i processi, no? ma lo sai benissimo. Non sarei così pessimista per quanto mi riguarda, anche se Prandelli dovrà ricominciare da zero. Piuttosto questo poteva essere il nostro 78, cioè il mondiale da cui ripartire per costruire una squadra, il mondiale della ricostruzione. La mia impressione resta questa: sono stati persi 2 anni con questa squadra. Beh sì, ma sai, allora chiariamoci una cosa: nello sport, la dimostrazione è, passando da un altro tipo di sport, ad esempio, non so, lo sci di fondo dopo le Olimpiadi di Torino, con la scusa che avevi tutti i campioni del mondo, eccetera, eccetera, hai perso 4 anni, sei andato a Vancouver e hai fatto un disastro. Mm. E l'Italia dell'82, nell'86 siamo i campioni del mondo, continuavano a dirselo tutti i minuti. Disastro. E poi hai perso i 4, che è difficile staccarsi da quella realtà. Ieri una trasmissione televisiva, ho sentito ancora un illustre ex giocatore dire: ah, ma eravamo in campo, sei campioni del mondo. Quale? Cioè, di campione del mondo di 4 anni fa, ma chi ha visto giocare Cannavaro, Zambrotta, Gattuso, lo stesso Pirlo e altri in queste ultime due stagioni, soprattutto nell'ultima, sa che quelli erano i campioni del mondo, in campo sono andati dall'altra cosa. Quindi i 4 anni sono stati persi anche perché inevitabilmente un grande successo ti mummifica una situazione. Io quello che non vorrei adesso è che Prandelli, arrivando con enormi difficoltà che aveva, perché innanzitutto doveva convincere la gente, poi convincere i giocatori, poi cercare i giocatori che comunque non ci sono. Vorrei solo questo, che Prandelli potesse lavorare sui 4 anni, non sui 2 dell'Europeo, perché certo, il rischio è che per dover fare una squadra per andare agli europei, far bene agli europei, si torni a fare quei progettini che durano 2 anni, falliscono e poi deve ricominciare. Lui deve poter lavorare su una prospettiva dei mondiali del Brasile e quindi, anche se la tappa intermedia sono gli europei, se poi si sballano, pazienza, tanto gli europei quando li vinci non contano assolutamente nulla e quando li perdi purtroppo si è visto l'ultima volta che cosa è successo. Marco, non fa una piega questo discorso, degli europei non ci deve importare nulla se non una tappa per la costruzione di una squadra proiettata tra 4 anni ai mondiali brasiliani, non c'è dubbio. Grazie Marco, buon lavoro laggiù. Grazie anche a voi, ciao. Grazie davvero a Marco Alsaldo. Non so se condividete, insomma, adesso si tratta di recuperare i 2 anni che abbiamo buttato via. Io continuo ad essere dell'idea, non so voi, 800240024, ve l'ho già detto, numero verde, ma credo lo conosciate bene, sms 349-238-6666. Continuo ad essere dell'idea che, propugnata da Roberto Beccantini, ed è una frase che continua a rimbalzarmi in testa, soprattutto in questi giorni, cioè un commissario tecnico campione del mondo dovrebbe essere rimosso per decreto, perché altrimenti si vive con la testa girata all'indietro e si arriva a questo punto. Più che altro si sbatte via del tempo, non altro. Dunque, 2 anni di lavoro sono stati persi perché c'erano debiti di riconoscenza da pagare, c'erano campioni del mondo che di fatto non sono più tali se non sugli album delle figurine, perché sappiamo, conosciamo bene la stagione che hanno fatto i campioni del mondo del 2006 che erano ora in Sudafrica. Dunque questo doveva essere un mondiale da cui ripartire, un mondiale non della nostalgia ma della voglia di costruire un futuro diverso con un altro allenatore, ma sono tutti discorsi di retroguardia. La realtà è questa, insomma, se si fosse partiti 2 anni fa con Prandelli, se fosse continuato con Donadoni, io penso che Donadoni non fosse adeguato per questioni anagrafiche, di esperienza, eccetera, era stato scelto in un momento di estrema emergenza del nostro calcio, non credo fosse ancora adeguato a gestire la nazionale italiana con tutto ciò che comporta. Credo che Prandelli sia assolutamente adeguato. Avrei voluto che una scelta di questo tipo, non dico Prandelli, ma un allenatore di questo tipo, fosse stata fatta 2 anni fa. Magari oggi avremmo partecipato a questi ottavi di finale, magari anche ai quarti, magari poi saremmo andati fuori, però avremmo avuto qualcosa su cui costruire, a cominciare da domani, mentre da domani si parte da 0. Uruguay 1, Corea del Sud 0. Siamo al 60° di questa partita, decisa al momento da Suarez. E guardando il piazzamento della difesa coreana in occasione del gol del vantaggio di Suarez, giocatore che quest'anno ha segnato un sacco di gol nell'Ajax, guardando il piazzamento di quella difesa coreana, insomma, qualche rimpianto mi viene, piazzamento che ho definito prima e confermo amatoriale. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi cominciamo subito a parlare con gli ascoltatori. Ultimamente è in difficoltà, il cross di Chaduri, non c'è calcio d'angolo ma rimessa dal fondo per Muslera, ha protestato Chaduri, voleva l'angolo. Siamo al 17° del secondo tempo, 1-0 per l'Uruguay, ma altra musica in questo secondo tempo. È cambiato. Tra l'altro Muslera, che io continuo a considerare uno dei peggiori portieri del nostro campionato, è stato è stato citato come miglior portiere della prima fase di questo mondiale. Uruguay 1, Corea del Sud 0, 62° di gioco. Per una volta non condivido per niente, gli europei a me fanno gola, ma vi voglio bene lo stesso, scrive Cristiano via SMS. Ma io dico europei, ma certo che a tutti fanno gola, però a questo punto si tratta di ricostruire una nazionale partendo da zero, partendo da zero. Dunque non può essere, non ci si può far ingolosire più di tanto, caro Cristiano, da questi europei, perché adesso si tratta di cominciare un ciclo che non può che essere quadriennale, perché se gli europei non vanno come devono andare, agli europei stecchiamo come un sacco di volte è successo in passato, perché ho l'impressione che non sia un torneo che si attagli molto alle caratteristiche, al DNA della nazionale azzurra. Ebbene, se cominciamo a mettere in discussione tutto quanto dopo due anni di lavoro e dopo gli europei, allora che facciamo? Ripartiamo da zero un'altra volta? No, io direi di no. In questi giorni continua a rimbalzare un ritornello che non condivido più di tanto. Oggi lo rilancia Max, ma lo rilancia anche e soprattutto Calderoli in un'agenzia, il solito Calderoli in un'agenzia appena uscita. Max scrive: presidente e allenatore si assumono le loro responsabilità, quindi cosa vuol dire se non pagano? Uno si dimette e l'altro restituisca l'ultimo anno di stipendio. Molta parte degli italiani rivuole i soldi di Lippi, vuole che Lippi paghi in denaro, perché pagare in termini di panchina non si può, l'ha già fatto in una situazione inedita per il calcio italiano. In altre situazioni saremmo qui a dire benissimo, tiriamolo giù da quella panchina, già fatto, e quindi tutti un po' spiazzati, adesso rivogliono i soldi. Non condivido tantissimo questa posizione, perché non è così che si fa nello sport professionistico, nella professione in genere. Semmai guadagnerà molto meno al prossimo giro, o chissà se farà ancora allenatore, o chissà se troverà un'altra panchina. Questo sarà il fio da pagare per questo mondiale storto. Ma Calderoli ovviamente ribatte a Max e a tutti gli altri: se qualcuno si assume la responsabilità di tutto come ha fatto Lippi, si assuma pure la responsabilità di rinunciare al suo stipendio. E anche il presidente della Federcalcio Abete, che dice che il calcio è autonomo, ma i versamenti dal CONI dimostrano che non lo è, si assuma la sua parte di responsabilità e dia le dimissioni. Quando ci sarà un politico che restituirà lo stipendio in caso di malgoverno? Mai, credo. Non so voi, io credo mai. Riccardo Viareggio, buonasera, poi Marcello da Napoli, buonasera, poi Alberto da Milano, buonasera. Riccardo. Buonasera a tutti. Io volevo fare una considerazione. Io volevo capire da lei se effettivamente in Italia si può partire con dei giocatori nuovi e quindi abbiamo dei giocatori da nazionale oppure no, perché a parte siamo andati a questo mondiale con i ricordi del 2006, sì, e siamo andati al mondiale con quattro giocatori della Juventus, sì: Cannavaro, Chiellini, Iaquinta e Camoranesi. Ora mi domando, con tutta l'annata che ha fatto la Juventus, se era indispensabile andare con questi quattro giocatori? Cioè praticamente la spina dorsale dell'Italia è stata della Juventus. Sì, allora le cose sono, quello che mi domando io è: abbiamo effettivamente dei giocatori da nazionale oppure bisognava per forza andare con questi giocatori qui e bisognerà poi ripartire con questi giocatori qui, perché effettivamente... Senta, non c'è, io le leggo una formazione che compare a pagina 19 del Corriere della Sera di oggi, Vergata da sconcerti. No, non so se sarà, potrà essere la nazionale di Prandelli. Oggi si fanno un sacco di... è il giorno dei nomi, sono i giorni dei nomi. Sirigu in porta, quindi linea difensiva con De Silvestri, Bonucci, Chiellini e Criscito. A centrocampo De Rossi, Pirlo, Montolivo, in attacco Balotelli, Gilardino, Cassano. Le piace? Sinceramente leverei De Rossi e Pirlo, perché De Rossi ci ha fatto uscire dal mondiale, lo vorrei far presente. Guardi, anche Riccardo, se... però De Rossi, 26 anni, secondo me è uno di allora perché lo leviamo? Di quei due o tre giocatori di classe internazionale che abbiamo, non ne abbiamo tantissimi. Attualmente al momento, poi magari si costruiranno, però lo sport a livello internazionale, non solo il calcio, è profondamente diverso dallo sport entro i confini italiani, però, locali, no? È d'accordo con me che questo mondiale qui ha sulla coscienza tre gol? Sono d'accordo che sì, sono convinto del fatto che abbia giocato un mondiale pessimo, e che il primo gol slovacco dell'altra sera sia quasi integralmente colpa sua, perché ha sbagliato un disimpegno come si fa sui prati amatoriali, dicevo prima, non un errore, non una giocata da De Rossi, chiaramente, questo è chiaro, però siamo ai dettagli, il quadro complessivo è differente. Quindi io credo che materiale su cui non sarei così pessimista, dicevo prima, materiale su cui ricostruire al di là di tutto ce n'è, perché comunque giovani piuttosto bravi in giro ce ne sono e altri ne usciranno, io credo, perché a Bonucci possiamo aggiungere Ranocchia, perché Santon, che è arrivato da una stagione disgraziata, io credo tornerà ad essere quel giocatore di incredibile personalità e talento che avevamo intravisto 2 anni fa. Quest'anno no, quest'anno è stato azzoppato dagli infortuni per tutta la stagione. Credo che Balotelli possa esplodere, credo che... Attenzione, c'è il pareggio della Corea del Sud a proposito di sorprese. Lee Chung-yong ha pareggiato, uscita a vuoto di Muslera, e Lee Chung-yong mette dentro il pallone dell'1-1, ha pareggiato la Corea del Sud. Hai meritato questo risultato per quello che ci hanno fatto vedere nel secondo tempo, eh? Non è che sia venuto... Adesso le cose tornano un po' a posto, un traversone su punizione dalla tre quarti, una palla spizzata in area, Muslera che esce a farfalle come tante volte l'abbiamo visto nella Lazio e becca il gol di testa da un coreano. Insomma, adesso non dico che sono un po' più tranquillo con tutta la simpatia che ho per l'Uruguay, però Muslera, miglior portiere del mondiale fin qui, era una cosa che non mi quadrava. Andrea da Pisa, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Buonasera, complimenti. Io volevo fare brevissimamente un discorso un pochino più a largo raggio, perché secondo me bisogna ripartire dalla base, e dalla base nuova alla FIGC, e soprattutto dalla base nuova nel rafforzare i settori giovanili. Quando sono anni che sta dominando il campionato una squadra che praticamente non ha nessun giocatore italiano, sì. Anche questo secondo me è qualcosa che ci dovrebbe far pensare. Ripeto, poi si può parlare di cimitero degli elefanti dove abbiamo preso i giocatori, possiamo parlare di meriti, dei meriti, però il nostro livello più o meno è questo. Sì. Se non si parte dal valorizzare i settori giovanili, se non si parte da una riforma radicale, però secondo me anche voi giornalisti dovreste insistere più su questo e sullo stimolare gli organi. Guardi, però Andrea, posso dire una cosa, è chiaro che nessuno in questo paese sarà contrario a quanto lei dice, no? Lavorare sui settori giovanili, lo diciamo tutti in 60 milioni in coro. La realtà però è diversa, lo sport professionistico oggi si deve fare i conti con la legge Bosman, deve fare i conti con la libera circolazione dei lavoratori, deve fare i conti con lo spettacolo. Io credo che nello sport professionistico debbano giocare i migliori a prezzi di mercato, no? E quindi, ad esempio, si parla molto, molto spesso, a vanvera anche dell'Inter, ma tutti stranieri. L'Inter è una squadra professionistica che gioca per vincere, quindi il parametro è questo. Poi, guarda caso, l'Inter, che è una delle poche ad aver investito sul serio negli ultimi anni nel settore giovanile, ha tirato fuori e sta tirando fuori dei giocatori, no? Di Bonucci e Ranocchia sappiamo, poi abbiamo di Balotelli e Santon sappiamo o sapremo di altri giocatori tipo Crin, tipo altri che Andreolli, altri che abbiamo visto a diverso livello negli ultimi anni, nelle ultime stagioni. Quindi il Milan quest'anno ha ricominciato ad investire sul settore giovanile nella stagione appena conclusa, ma i frutti, dopo aver concimato con il grano in questa stagione, li vedremo tra qualche anno. Dunque bisogna tener conto di diversi parametri, sennò si rischia di dire una cosa che tutti condividono naturalmente, ma che ha poco fondamento. Alberto da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo fare una considerazione sulla sua opinione. Io mi auguro che nei prossimi giorni, settimane, mesi, le considerazioni e le valutazioni su questo mondiale vengano fatte, ecco, improntate più a una certa lucidità di analisi che ho sentito anche oggi nella sua trasmissione. Perché, ecco, adesso al di là di tutto, sbattere il mostro in prima pagina, Lippi, al di là del... Ma sa che ha ragione Alberto, ha ragione, ma sa che funziona così, no? Infatti, come al solito, non finisco mai di sorprendermi di questo all'italiana, con delle scene soliti, da una parte sono i trionfalismi, poi delle scene gogne mediatiche, eccetera. Invece Lippi l'ha anche ammesso, ci sono degli sbagli fatti, io stesso che sono uno, è stato anche un ammiratore di Lippi da subito, anche prima del mondiale. Ma lo sono anch'io, Prima chiedeva, mi ricordo in trasmissione, a qualcuno l'ha mai visto così insicuro? Evidentemente Ma è questo che mi sorprende. Guarda, Alberto, bollare l'esperienza di un tecnico che ha vinto tutto e che ci ha fatto esatto. vinto un mondiale e che ha steccato per la prima volta, salvo quella parentesi tragicomica all'Inter, no? Quello psicodramma nerazzurro. Infatti molti in quegli anni steccavano. Però voglio dire, io penso che un domani, quando anche Mourinho, che pur essendo uno juventino stimo, non si può non dire che sia un tecnico valido, preparato e vincente, anche lui arriverà alla sua steccata. Ma perché viva Dio, è la legge dello sport del calcio che ha la palla rotonda. Bravissimo. Perché poi se noi inseriamo... Anche se, Alberto, rimane il fatto che sarei stato molto sorpreso da un esito molto diverso da questo mondiale con Lippi, perché la scelta aveva un vizio in origine, no? No, non c'è dubbio, tant'è vero che io non l'avrei riproposto, ma perché proprio perché il calcio ha delle dinamiche. Bravo, perché è difficile staccarsi da quella Coppa del Mondo, no? Perché hai vissuto un'esperienza così grande, così più grande di te, che è chiaro, è banale dire che far meglio non si può, ma è banale dire anche che non ci si può staccare da quei giocatori, da quei momenti, da quelle emozioni, perché poi cerchi di rifare tutto allo stesso modo, no? E a questa fase della preparazione eravamo così, e la stampa contro ci può far bene, e cerchi degli appigli in un'esperienza. Qui doveva essere qualcosa di profondamente diverso, con degli interpreti diversi. Certo, ci voleva coraggio nelle scelte, ma il coraggio non è il nostro forte, non è il forte di chi governa, ad esempio, la Federcalcio, non è mai stato. Grazie Alberto. Valerio da Milano. Buongiorno, solo per dire che a mio parere Lippi è esistito in quanto ombra di Moggi. Mm. Alla Juventus è durato anni, gli uomini li sceglieva Moggi. Quando ha vinto il campionato del mondo di calcio, l'ha vinto con gli uomini di Moggi, ai quali ha aggiunto Pirlo, che è un uomo che chiunque vuole al mondo vorrebbe avere la propria squadra, e Gattuso al servizio di Pirlo. Quindi l'uomo cruciale del nostro calcio è Moggi. Nella scelta degli uomini Moggi, con questo non voglio fare nessun complimento a Moggi per le sue comportamenti, ma in quanto a scelta di uomini mi pare che nella Juventus gli uomini li scegliesse Moggi, e Lippi poi li faceva giocare, e i campionati del mondo Lippi li ha vinti con gli uomini di Moggi, Valerio, che Moggi capisse di calcio non è un mistero, punto. Il resto non voglio fare nessuna commento al comportamento di Moggi, che ovviamente non condivido dal punto di vista delle altre cose, dal punto di vista della scelta degli uomini. Non dimentichiamo che quando Lippi è andato alla Inter ha proprio fatto poco per non dire niente. Certo, come molti... non aveva un capo come Moggi. Allora, i grandi allenatori diventano tali se hanno grandi società alle spalle, questo è indubbio, è quasi... Per usare il termine di prima, è quasi banale. Non c'è un allenatore in grado di fare grandi cose se non ha una grande società alle spalle, per quanto bravo possa essere. Io credo che Marcello Lippi sia un bravissimo allenatore, che si è trovato a lavorare con persone competenti calcisticamente, sul resto non discutiamo. Dunque non saprei cosa aggiungere. Vero, ma Moggi sceglieva i giocatori, era una Juventus molto forte, con quei giocatori molto forti. Lippi è andato ai mondiali, molti di quelli erano nella Francia, guarda caso finale Italia-Francia, ma insomma sono tutte cose abbastanza scontate queste. Io continuo a pensare che Lippi sia stato, non so se sia ancora, sia stato certamente un grandissimo allenatore. Rientrando con il destro e poi con l'interno piede l'ha messa proprio sul secondo palo, era già 5-10 minuti che effettivamente l'Uruguay aveva ripreso vigoria, tant'è vero che tu mi avevi fatto una domanda, cos'è un calo psicologico, e qui rivediamo intanto il gol. Spizzicata del numero 10, prende la palla di testa e poi rientra molto bene, un pochettino sulle sue il numero 8, però poi bellissima l'esecuzione. Bella, certo, signori, Mario Suarez ha riportato in vantaggio l'Uruguay, doppietta per lui all'80esimo, gol magnifico di questo giocatore nella prima fase, un po' oggetto misterioso, ma ha segnato una montagna di gol quest'anno in Olanda con l'Ajax, e oggi ne ha fatti due, il secondo davvero straordinario. Adesso io concederei un altro paio di giorni, direi al massimo oggi e domani, per la rabbia e il veleno da far scorrere anche nell'etere, no? Poi io torno a parlare di mondiale, di Italia non voglio più sentire nulla. Si tratta di trovare un'altra squadra per cui fare tifo. Io ce l'ho, non so voi, sceglietevela e ditemelo. Intanto è un piacere salutare Fabio Tavelli da Sky. Ciao Fabio. Ciao Carlo, buonasera a tutti. Come stai? Ho appena sentito, molto bene, ho appena sentito su una radio in lingua Zulu il gol di Suarez, ma onestamente ho avuto bisogno della tua di traduzione perché non capisco una parola di Zulu. Sono su un van che mi sta riportando a casa, oggi ho lavorato dalle 7:30, alle 7:30, per cui per la mia giornata lavorativa è finita e non riuscivo a capire cosa fosse successo dall'entusiasmo del radiocronista. Per fortuna ci sei stato tu che mi ha fatto una traduzione simultanea perfetta. Senti, l'altro giorno intanto ti ho sentito con Gigi Garanzia la storia del taxista Zulu e della tua risposta in bresciano, Strepitosa, ma era dovuta, perché lui mi aveva detto che sarebbe stata una notte di vuvuzela. Allora io non mandava di dirgli, beh, allora meglio così, perché avrei dovuto dirglielo in inglese, sì. Però preferivo non dirglielo. Allora gli hai detto? In italiano, allora meisse, dialetto bresciano. Ma guardate, un po' interdetto, non ha capito, io non ho rilanciato e via. Mi dispiace per i sudafricani, però insomma, se devo pensare una notte con loro che mi suonano le vuvuzela nelle orecchie, dico meglio così, va. Senti Fabio, per chi fare il tifo da qui in poi? La tua simpatia a chi va? Ma io tifo Argentina, convinto. Tradisco per una volta la mia simpatia per l'Inghilterra, ma la tradisco consapevolmente, perché trovo che Maradona sia un personaggio fantastico anche da allenatore. E ho visto due volte l'Argentina dal vivo, mi ha entusiasmato, anche se in difesa insomma ha dei punti deboli forti, però tengo all'Argentina, pronostico una finale Argentina-Olanda come nel 78 e spero che l'Argentina vinca il mondiale a questo punto. Grande Fabio, con noi Albi Celeste. Albi Celeste sempre. Senti, volevo chiederti anche Carlo, domani dura, però domani dura con durissimo. Messico, perché il Messico è una bella squadra e soprattutto ai giocatori per mettere in difficoltà l'Argentina. Ho visto, uscendo qui dall'International Broadcast Center, i colleghi messicani e argentini che tornavano dalle conferenze stampa, perché erano qui molto vicini a noi, e cioè, scambiando proprio tre parole con gli argentini, ho capito che la temono questa partita. Io la temo moltissimo, sono già in trincea, domani sarò nervoso come un cane in attesa di Argentina-Messico. Volevo chiederti un dettaglio invece, Fabio. Prima, nel primo tempo, c'è stato un palo pieno della Corea su punizione. Fin qui, punizione perfetta, meravigliosa, no? Sullo 0-0. Ho notato che solo coreani e giapponesi riescono a tirare le punizioni con questo pallone. Solo loro e un signore che ne ha tirata una con la giacca a vento in allenamento, però fa attualmente il commissario tecnico dell'Argentina. Solo loro. Mi sono venuti in mente i cartoni animati giapponesi, quelli di Shinzo Mai e di una volta, però è vero, hai ragione, hai fatto una notazione giusta, hanno gli occhi a mandorla, i migliori calciatori di punizioni, praticamente non ne ho viste di ben calciate. L'altra sera Cristiano Ronaldo ne ha spadellate due, ma veramente orribili. Ho il sospetto che i calciatori europei non abbiano ancora preso confidenza perché sperano che Jabulani poi li aiuti, ma credo che Jabulani, se ben trattato, sia un alleato di calcia, se maltrattato sia un alleato dei portieri. Possa dare delle soddisfazioni se ben trattato, e non c'è nessuno che tratta qualunque oggetto sferico meglio di Diego Armando Maradona anche a 50 anni in queste condizioni. Questo è sicuro. Fabio, voglio chiederti ancora questo, dimmi. No, dico, è come pensare a Larry Bird ai tiri liberi, insomma. Bravissimo. Secondo me se lo metti lì anche da seduto adesso fa 10 su 10, ci scommetto tutto quello che voglio. Vabbè, ti chiedo ancora questo, ti ha convinto fin qui il Brasile? No, non mi ha convinto a centrocampo, non mi ha convinto caratterialmente con Felipe Melo, che l'altro giorno è stato tolto dalla disperazione, ma non dalla disperazione perché stesse giocando male, ma perché era troppo nervoso, ha steso Pepe in maniera proditoria e non avrebbe finito la partita se fosse stato in campo. Trovo il centrocampo un po' lento, poco capace di riportare la palla dalla linea di difesa alla linea d'attacco, e insomma mi stupirei moltissimo se il Brasile vincesse questo mondiale. Fabio, ci sentiamo domani se hai tempo per farci un po' di coraggio in attesa dell'Argentina, partita che temiamo. Vamos. Moltissimo. Vamos, grazie. Guarda, Fabio, io la vado a vedere allo stadio e mi metterò insieme ai ragazzi dell'Albiceleste. Grande, ci sentiamo domani, grazie. A domani, ciao. Ciao, grazie Fabio Tavelli. Dunque l'Uruguay è a 4 minuti dal passaggio ai quarti di finale di questo mondiale. Forlan. Fernandez non arriva a controllare il pallone, c'è rimessa laterale per la Corea del Sud. Chi vince questa partita troverà la vincente di Stati Uniti-Ghana che si gioca stasera. Francesco da Palermo, salve. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, salve. Allora, intanto un ciao a tutti. Io volevo dire brevemente, non sono d'accordo con quello che ha detto poc'anzi l'altro ascoltatore riguardo al fatto che adesso è facile criticare Lippi e tutto quello che è successo, perché a memoria non ricordo, insomma, un altro campionato del mondo dove abbiamo criticato così in maniera anticipata, sì, le scelte del tecnico. Cioè, no, quest'anno no, noi stati... diciamo le stesse cose ancora prima che cominciasse il mondiale. Sì, sì, ma anche in altre occasioni, Francesco. No, non, io non c'è mai stato. Memoria mia, perché io sì, insomma, ho 30 anni, quindi non sì, no, per quel che ricordo c'è io. Stato, ce ne sono stati. Magari qualche giocatore, ma quest'anno, insomma, tutti sapevamo che tutte le scelte erano sbagliate. Comunque è vero che è anche facile parlare dopo. Una cosa che volevo chiederle, intanto volevo finire il discorso dicendo che secondo me questo mondiale sarà ricordato come il mondiale dell'arroganza di Lippi, perché anche il modo di fare che ha avuto precedentemente era di una persona che appunto sapeva di poter usare l'arroganza, perché insomma aveva vinto un mondiale. Ma io una domanda che voglio fare a lei è, intanto cosa spinge un uomo, un essere umano anziché uscirsene da vincente, appunto avendo vinto un campionato del mondo, a tornare sui suoi passi, insomma, l'ambizione, direi, uscirsene, non dico da perdente, ma sicuramente da perdente certamente, però se ci pensiamo bene, insomma, Marcello Lippi non è mai stato amato nemmeno quando ha vinto il mondiale, non è mai stato amato fino in fondo da molti, quindi molti aspettavano solo questa occasione in cui esce dal mondiale di fatto perdente, ma su tutto il fronte, su tutta la linea, per gridare anche la loro antipatia nei confronti di Lippi, che peraltro personalmente non condivido, ma qui è una questione di sensibilità e di gusti, no? Certamente Lippi esce da perdente in maniera assoluta da questo mondiale, certamente ha rischiato grossissimo e ha perso la sua scommessa, certamente anche ha fatto una scelta estremamente coraggiosa oltre che erronea nel tornare indietro e nel tornare ad allenare questa nazionale. Ha sbagliato lui, secondo me ha sbagliato chi l'ha richiamato, ha rischiato moltissimo e ha perso la scommessa. Questo è quanto, secondo me. Uruguay a un minuto e mezzo, che c'è il tempo di recupero dei tre che restano, dei tre minuti di recupero concessi, resta 1:40 da giocare, a 1:20 ora dalla qualificazione ai quarti di finale, anche se Muslera prima ha provato a metterci del suo con un'altra mezza papera, palla molto vicina, si gioca sotto un diluvio vero. Questo primo ottavo di finale, palla che è scivolata Muslera sotto le gambe e per fortuna dell'Uruguay un compagno ha salvato sulla linea questo pallone che molto lentamente stava avviandosi verso la porta. Tanto quanto va alle vostre preferenze, io raccolgo un Argentina, poi un ma come si fa a non ti fare Argentina e Inghilterra, peccato che entrambe non possono arrivare in finale. Raccolgo un non posso tifare una nazionale che lascia a casa Zanetti e Cambiasso, quindi forza Snyder, Roberto da Padova, eccetera, eccetera. Ma domani continuiamo in questo discorso. Paolo, Siracusa, buonasera. Sì, buonasera. Io seguo Roberto da Padova perché io d'ora in poi tifo Olanda per motivi familiari, quindi sì. È abbastanza facile per me. Benissimo. Allora, cosa al volo? Sì, io volevo essere un po' controcorrente nel discorso di Lippi. Sì. Premessa. Come diceva lei, è sempre stato antipatico un po' alla stragrande maggioranza, però penso che stavolta lui abbia voluto rischiare alla grande, nel senso anche la preparazione in altura secondo me era mirata a far entrare in forma i giocatori dai quarti di finale in poi, perché avendo sulla carta il girone più facile di tutti, lui ha pensato va bene, con una vittoria e un pareggio siamo avanti. In un modo o nell'altro si passa e poi si vediamo. Si passa, gli ottavi va bene, insomma non prenderemo mai l'Argentina o il Brasile, e poi ai quarti si vede, poi si comincia a entrare in forma e via. Sì. Ma Paolo, guardi, io ho avuto la, non dico la stessa sensazione, ma una sensazione analoga, cioè vedendo l'Italia nelle disastrose condizioni fisiche in cui mi è sembrata non, beh, chiaramente un'amichevole con il Messico, ma poi anche in queste partite del Mondiale, soprattutto l'ultima naturalmente, la prima ora di gioco è stata qualcosa di scandaloso dal punto di vista fisico, cioè erano giocatori paralizzati. Poi invece mi sono reso conto che i problemi non stavano tanto nelle gambe quanto nella testa dei giocatori, e in questi giorni abbiamo avuto ampie conferme, a cominciare da quelle parole di Lippi dopo la partita: no, la responsabilità è mia perché i giocatori erano terrorizzati. Questi erano veramente terrorizzati. Guardando l'ultima mezz'ora della terza partita ravvicinata, cioè quella in cui siamo usciti con la Slovacchia, mi sono reso conto che il problema non era fisico, stava nella testa dei giocatori più che dentro alle gambe. Questa è la sensazione che ho avuto. Andrea Zorzi, dove sei? Sono tornato dall'incontro ad Ancona con il presidente del CONI regionale. Abbiamo chiacchierato un pochettino, anche di calcio naturalmente, perché... Cosa ha detto il presidente del CONI regionale? Ma lui ha detto che, vabbè, naturalmente ha potuto non inferire più di tanto, ha parlato più di figura a dir poco elegante. Sì. E ha detto però che secondo lui, se si mandava una squadra di Serie B, appena promossa in Serie A, magari correvano un po' di più, il che potrebbe essere esagerato, però racconta un po' le tante opinioni che girano in questi giorni. Sì. Devo dire che stamattina leggendo i giornali invece ho condiviso il fatto che mi è sembrato che in modo un po' troppo rapido e un po' sbrigativo tutti stanno assumendo le responsabilità, io, adesso andiamo avanti, adesso ricominciamo e via dicendo. E quindi questo sembra avere l'aria di essere una cosa su cui si vuole chiudere in fretta, il più fretta possibile, sì, il post mondiale. Ne parlavamo anche ieri noi altri, credo che ci siano un po' di cose che non funzionano, nel senso che va bene fare la squadra e fortino, ma non puntare solo su quello. Certo, va bene evitare i processi, perché a volte sono veramente inutili, esagerati. Allo stesso modo ho l'impressione che fare una squadra in cui non è che c'è uno o due senatori, ma oggi il New York Times scriveva che l'Italia è la squadra più vecchia d'Europa e commentava l'eliminazione di Italia e di Francia senza nessun tipo di alibi. E quindi insomma c'è un po' di cose che convergono, e anche lo sport, che non è il calcio, in qualche modo ne parla. La domanda che ho rivolto in questi giorni era: ma secondo voi l'eliminazione, un po' provocatoria credo, l'eliminazione dell'Italia potrebbe essere utile all'Italia, allo sport italiano? Cosa ti hanno detto? La risposta comune è: non in modo diretto, ci piacerebbe che potesse essere un momento di riflessione, e però questo è un argomento che si usa quasi sempre con le crisi economiche, e poi dopo si torna a fare in modo che il calcio sia veramente esageratamente l'unico sport italiano. E la tua risposta qual è? Che mi sorprende questa sorta di grande contrapposizione che gli altri sport qualche volta hanno nei confronti del calcio. Si sentono veramente sopraffatti, lo dico anch'io personalmente, perché c'è una tale distanza, una tale impotenza nel provare anche solo a discutere, che questo sembra incolmabile, sembra inaccettabile. Dopodiché il calcio è ovviamente uno sport che ha tradizione, cultura, soldi, interessi esageratamente superiore agli altri sport, e vorrei anche vedere altri atleti, tra i quali i pallavolisti per esempio, se fossero sottoposti alla pressione di un calciatore, certo, come reagirebbero. Quindi non sto a fare una critica banale. Allo stesso modo, il fatto che siamo dei pochi paesi a livello mondiale veramente monosportivo, cioè solo calcio, questo ci mette in una condizione un po' difficile. Certamente. In Inghilterra il calcio è famosissimo, però c'è anche il rugby, certo, in Francia c'è un po' di rugby, in Germania, che sia la pallamano che siano altri sport, diciamo che c'è un po' di alternativa anche ad alto livello. In Italia no, solo Italia calcio, no. Siamo calcio-centrici, e questo ci toglie anche tante possibilità, secondo me, sì, caro Andrea. Sì. Senti, sentiamo domani? Quando vuoi, guardi, domani riposo un po' anch'io, sì, il viaggio sta iniziando a farsi sentire, sì, e poi però sono pronto per andare giù verso San Benedetto e poi l'Aquila, dove saremo 2 giorni, resteremo all'Aquila, poi Teramo, e poi andiamo giù per ritornare verso Napoli. E noi ti seguiamo come navigatori satellitari. Grazie della vostra collaborazione, buona giornata. Grazie ad Andrea Zorzi, che ha citato prima il rugby. Oggi in Sudafrica c'era il replay della partita della settimana scorsa, cioè Sudafrica-Italia. Un minuto per Giacomo Bagnasco per dirci com'è finita. Sì, Carlo, la partita è finita 55-11, quindi una lezione molto più severa del 29 a 13 di 7 giorni fa per gli azzurri, un Sudafrica più concreto, più convinto, più determinato, più vicino probabilmente al Tri Nations che comincia il 10 luglio proprio con Nuova Zelanda-Sudafrica, un'Italia in versione sperimentale che si è battuta, la quale non si può rimproverare niente dal punto di vista dell'impegno, ma è stata sopraffatta per i valori tecnici e anche fisici superiori da parte degli avversari, che hanno segnato 7 mete, per gli azzurri una meta soltanto, di Michele Sepe alla prima segnatura in azzurro. Perfetto, grazie Giacomo Bagnasco. Dunque, lezione severa per il rugby italiano laggiù in Sudafrica, si vede che per l'azzurro proprio non era settimana. Grazie a Valeria Coffaro per il lavoro in redazione, a Carmelo Lauricella in regia. Ci sentiamo domani dalle 5 alle 7 per parlare di sport, soprattutto di mondiali, e poi da lunedì ricominciamo la sera, ogni sera, anche quando non si gioca e fino alla fine del mondiale, i nostri speciali, nei quali io mi sto divertendo moltissimo, vi confesso, dalle 9 alle 10 e mezza, 21, 22, 30 tutte le sere fino all'11 di luglio, giorno in cui questi mondiali si chiuderanno. Grazie a tutti, buona serata.